1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sicuramente 5, sì, quanto arriva? Sono l'altra radio, 9, guarda, aspetta, la potenza è a metà, è così? 9, 10 circa. 50, sì. K, col di polo sono però, che accordo anche qua, dato un colpo di accordato era fatto buu. Okay. Allora l'ultimo led, quello che segna i 10 è traballante. Sì, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, ora, ora, ora, ora, ora. Infatti traballa, l'ultimo led traballa. Invece quando stai parlando, quando fai 9, quello è fisso. Poi arriva 9, 10, però traballante. Accendendo e spegnendo, riaccendendo e spegnendo. Ti ho mandato il video. Ok. Andate. Babbo. Natali, che abisere? E con signorini. Con signorini, lo sapevo. Pensavo che era con Lussuria. Ah, boh, non lo so, fate a turno, io non lo so, boh. Con Cecchi Paone, forse è con Cecchi Paone. Buono, il sasso buono, è poco strafottente. Che uomo vicino, che fuso, un uomo della sua cultura, a cosa si è ridotto? Se no, cosa, che dato al mano, questo è un altro prepotente. Ah, chi? Ma Giulio è prepotente. Chi? Ma Giulio. Ah, ma cosa? Ma. Un altro mi fa carezzare, una schiera di gay, che venga la televisione italiana. Ma te platinette. Guarda, finché si vestono normali anche, uno ci può anche stare, ma quando cominciano a vicinarsi con 10 barrucche, 10 vicini strani, allora sì che fai proprio l'ascamo. Come ti mandi l'ascamo, un platinette, è anche Vladimir Lussuria che si veste da donna. Gli hanno chiesto, ma come mai tu dice, ti consideri donna, però hai ancora il pitolino, dici. Ma è perché dice a me mi piace avere l'orgasmo ancora, capito? Compresa? Praticamente il viaggio, una cosa è l'altra. Via, sono passato dall'altra ragazza. No, Giulia, per carità. Poi almeno, vedi, non do qui. Ma troppo si capisce la voce perché mi sembra troppo forte. Finché si vestono, vedi, da come si credono, cioè da come si insomma, quello che è un conto, ma vestirsi con 10 parrucche, come ti va di platinette, Malgiulio, allora no. Però sai cos'è Giulio? Secondo me la televisione, lì dici buona idea a curare l'aria, dici buona a curare l'aria. Sì, ma è gente senza contegno, tu fa carità, non hanno un minimo di dignità, fanno schifo. Vabbè, uno è così, ma fatti gli affari tuoi e tranquillamente si dice, tanto lo sai che sei uno. Un contrambettone dello stesso. Infatti. Ma guarda, l'altro giorno su Facebook c'erano un sacco di commenti negativi, che ormai la cosa è diventata una moda, che prima tanti anni fa non era così, e purtroppo c'è chi risponde che prima era un tabù. Addirittura in certi paesi c'è la decapitazione, ma cioè, una cosa del genere in certi paesi non l'accettano, non l'accettano. Ecco che magari sì, ci saranno senz'altro, però lo tengono talmente nascosto, pensa tu dalla paura che hanno, talmente nascosto, e vanno con le donne, perché sennò guai per loro. Ma se fanno schifo, fanno. C'è quel Roberto Poletti che fa la radio la mattina e poi dalla mattina a Rete 4 mi sembra, o Rete 5 credo, quello lì su con quella presentatrice, non mi ricordo come si chiama, almeno quello la testa, sì, ecco. così, però non dà il senso che di essere così, perché parla tranquillamente, non si espone. Ma questa gente che si espone in questa maniera, fatene chi pubblicamente è il grande, fatene. E loro si credono chissà chi è, per carità, come quel cantante italiano che se ne è andato in America, anche quello lì, boh, non è possibile. Ma che cosa, se non sbaglio? Massimo Ranieri? No, non credo che Massimo Ranieri, non ho mai sentito niente, come la Lucio Dalla, ad esempio, come l'altro, come si chiama, un altro ancora, Renato Zero, quello lo stesso, ha tutte le sembianze, lui dice di no, ma io dico di sì, perché ha tutte le sembianze di un gay, come si presenta, come te ne dice, come dice solo per il successo, ma quale successo? Tiziano Ferro lo stesso, vedi, l'aveva dichiarato, nonostante nelle sue canzoni, quando parla di amore, comunque c'è sempre una donna. E appunto tu vai a immaginare che lui invece, capito, invece pure ha dichiarato. E così è. E quell'altro era morto di Covid, Solange. Quello era morto, te lo ricordi? È morto da Solange, oh. E anche quello lo stesso. Ma anche Cuso, sì, come hai detto tu, Tiziano Ferro, anche quello è vero. Ma poi la cosa più triste è, allora, si sposano con una donna, magari convivono con la donna per alcuni anni, dopo alcuni anni cambiano bandiera e si dichiarano gay. Boh, ma io non riesco a concepire la mentalità di questa gente, come. Per me sono dei poncaccioli e basta, indipendentemente dal fatto che può essere quella la loro natura, ma se è la tua natura tieniti riservato, non andare a sbandierare la 420 a tutti, a farlo sapere a tutti. Io dico sempre che secondo me c'è un problema. C'è un problema. Beh, quelli che sono sposati, che hanno figli, però gli piace andare a farsi le scappatelle con gli uomini, capito? La moglie non viene mai a saperlo, perché lui con una scusa che va a giocare a calcio, che va qui, che va là, che sta lavorando, ma lo tengono nascosto per tanti anni, capito? E cosa? Boh. Sì, anche i giocatori di calcio, ce ne sono tanti gay ci sono giocatori di calcio, sportivi ce ne sono un sacco che sono gay, per carità. Vabbè, ma finché uno dice sei così, vabbè, nessuno ti può dire niente perché sei così, ma cerca di avere un po' di dignità anche, non è che, ma è possibile, ragazzi, che una persona sa benissimo che sei una persona con un difetto, che non è un difetto da poco, è un difetto che tu mi dai, ma è un difetto di natura. No, non è un difetto di natura, perché la natura non è quella, la natura dell'uomo è un'altra, sei tu che ti sei affeminato con la tua mentalità e con le tue balorde. Ma la cosa più triste è che oggi nascono i figli e certe madri cretine, perché sono delle imbecille, delle persone imbecille, stabiliscono il sesso del figlio o della figlia. Ma è mai possibile? Quando sei piccolino tu le inculchi nella mente l'idea tua che magari non ti piace maschio, lo vuoi che diventi femmina. Ma è incredibile, guarda. Io mi chiedo sempre come facciano, come crescano i figli, perché se c'è l'adozione, capito, gli hanno approvato quella che possono adottare. Io non so, un bambino piccolino che cresce così in mezzo a due uomini, non lo so. Sinceramente non lo so, però sì, gli ormoni hanno gli ormoni così e nessuno gli deve dare una colpa, assolutamente, Giulio, quello no, perché loro si sentono così e nessuno gli deve dare una colpa, però il problema c'è, è che lo stanno naturalizzando troppo, secondo me. già con questa cosa di dargli i figli, di farli vedere incinta, cioè, secondo me stiamo uscendo fuori dal seminato adesso. Hanno esagerato, hanno già esagerato, non è che stanno esagerando, hanno già esagerato questa gente. Per non parlare poi, come fai tu ad avere un figlio, anche a volerlo adottare, un figlio quando sono due uomini oppure due donne? Cosa sono, due papà o due mamme? Ma è vergognoso, è vergognoso per il figlio stesso. Tu immaginati quando comincia a essere grandetto, che va a scuola eccetera, che i compagni di scuola vengono a sapere certe cose, non fanno altro che bullizzarlo perché è così, perché lo prendono in giro. Ti puoi immaginare che data di situazione che può vivere un ragazzo o una ragazza. È così, guarda, è vergognoso tutto questo. Perché magari ci sono gli uomini ricchi, quelli deficienti, che pagano le donne, le povere donne, per potersi fare un figlio, per adottarselo, che poi non è mai il figlio, perché è sempre il figlio di un'altra persona. Il discorso è questo. Non si può, un uomo ricco non può abusare della povertà di una donna, che ha necessità di quattrini, eccetera. Cosa? Sì, è Boy George, a te la metto a Boy George. Che carino, Boy George. Che cantante, te lo ricordi? Ah, non l'hai conosciuto tu? No, non lo so, boh. Secondo il cantante che non li seguo nemmeno io. Oh, manco mi penso. Adesso dicono che ad esempio uno di quei ragazzi che compongono il trio Il Volo, dicono che uno è gay. Non lo so perché ancora io non me l'hanno ancora dimostrato che lui è gay, però la voce è uscita, può darsi che ci sia verità, non lo so. Ah, importante che speriamo che non sia quello che si chiama Luca. Non lo so chi è, non lo so, uno di quei tre. Sono un gruppo straordinario e come artisti sono straordinari. Ed è veramente un peccato se uno è così, che poi si dichiara, magari perde anche tutta la fama e tutto il lavoro, come è successo a Jackie Paone. Prima, ti ricordi, Jackie Paone presentava quella trasmissione di cultura, eccetera, e una volta che si è dichiarato, ha perso. Adesso il suo lavoro qual è? Andare da una televisione all'altra a fare delle ospitate a mille euro alla trasmissione. Tu mi dirai, non fa niente, parla, si prende 1.000 euro, più o meno così. Li pagano bene, caspita. Li pagano bene, poi hanno dei contratti anche che devono fare quella trasmissione, cioè non è che a dire domani non ci vengo, no, cioè è un contratto che lunedì, giovedì e sabato, per dire, devi fare la trasmissione, che poi sicuramente ci sono le prove, non essendo in diretta, cioè non è che ci saranno anche le prove che fanno, no? Perché non è a dire che è mezz'ora di lavoro. Comunque, Berlusconi se ne ha licenziato un bel, come se ne ha Barbara D'Urso e da tanti altri. Cioè, una strage ha fatto, come se molto probabile ha fatto, una strage. Sì, in effetti, secondo me sta rovinando anche le trasmissioni. Ad esempio, di quella trasmissione di Bianca Berlinguer, che non faceva altro che criticare la lettera del padre, e adesso è lui l'ha assunta lì a fare trasmissione con il tifo. A me non mi balizzano nel gabbo quel cristiano lì, pensa un po', comunque faccia quello che crede. Ad ogni modo, la televisione oggi è talmente scaduta come qualità di programmi che è veramente una vergogna. Qualcuno se ne salva di programmi, ma veramente qualcuno. Poi tutti gli altri sono programmi che da schifo. Non vedi altro che gay e cosa, sia uomini che donne gay. successo in televisione. È una vergogna, guarda. Invece più bello ti sembra per esempio gli scambisti, no? C'è una coppia sposata con figli addirittura e vanno in questi locali di scambisti. Quello è secondo me più schifo di essere gay o lesbica. Quello è ancora più schifo secondo me, poi ognuno ha il suo parere, però quello fa più schifo secondo me. Quelli sono proprio terra terra, non hanno un minimo, ma un minimo veramente di dignità. È gente schifosa veramente, ma carità. Adesso stanno pretendendo che vadano a sposarsi in comune nudi, non è vero? Ho visto un articolo sul giornale da poco, che gli scambisti, questa gente qua, gli nudisti, anche noi scambisti, gli nudisti vogliono andare a sposarsi nudi in comune. Ma dico io, ma che ti sono macavero, sai, a vedere che prima o poi anche questi disgraziati riescono a ottenere. E c'era un sindaco di un paese della Sardegna, che non mi ricordo quale paese è, che era d'accordo. Boh, non è mai possibile. Ehi, alla moda sanno. Vedi, quelli gay comunque hanno i loro locali e non danno fastidio a nessuno, hanno i loro locali per il fine settimana, vanno lì, però è una cosa che sotto certi aspetti sta sfuggendo di mano. E troppe pretese e chissà il mondo dove andrà a finire. Sì, no, è una vergogna, una porcheria veramente, dai. È una porcheria, non è possibile che si possa accettare una situazione del genere nella maniera più assoluta. Perlomeno stando al nostro modo di vivere, perché è proprio assurdo, proprio da pocaccioni, proprio da gentaglia, ecco, questi secondo me sono atteggiamenti e comportamenti da gentaglia. Io la penso così, poi ognuno può darsi che mi sto sbagliando, ma non credo però, perché la dignità della persona non si deve mai offuscare in queste situazioni qua, dichiarandoli, facendoli così, e dimostrando al mondo intero, ma che sia, se vuoi sapere, sei un impervertito, cosa sì, sei un pervertito, solo così ti posso. E poi è bello, se tu gli dici che finocchio, sei addirittura passibile di cosa, di denuncia, boh. È un po' come il nero, no? Una volta lo chiamavano tutti quanti negri, negro, lo chiamavano anche loro stessi, ancora oggi si chiamano fra di loro negri, negro. Beh, se lo dici tu, se lo dice l'italiano, è passibile di denuncia. Perché lo ritengono un'offesa. Non ti posso chiamare mulatto o bianco, cioè, se sei niente, cosa ti devo. Appunto, a Vannacci l'hanno criticato perché ha detto che era sì, quella ragazza che dice d'accordo, sarai italiana, tutto quello che vuoi, niente da dire, però alle cose somatici di una persona straniera, perché in realtà è così, ma era usciadito, l'hanno criticato un po' così. È così, ti chiamano omofobo, ti chiamano, però, ma, via. No, l'altro giorno stavo appunto seguendo Corona, Fabrizio Corona, dicendo anche lui che la Mediaset sta chiudendo, non so dove, su quali cose passa, e tutti questi licenziamenti in tronco. Guarda che a parte tutto, Barbara D'Urso comunque aveva i suoi, ma un bel di ascolti, non pochi, no, un bel. Non è stato lì a pensare agli ascolti, ha pigliato la licenziata come a tanti altri, e vedi che molti non ci sono più. Si vede che li stavano sulle cose. E allora, come ti muoce il babbo, ha detto, vai zitta che va, e cominciamo a fare. E vedi, non ha guardato che quella donna lì comunque portava soldi all'azienda. Ed era bagata a ma bisogna fare anche 5-6 mutui di tutti i casi che va, pensa ad una così, senza ciappa, senza stipendio. Ehi, già i soldi, quella già li ha fatti, con tutti i soldi che gli hanno dato quando ha fatto la trasmissione, ma comunque adesso mi sembra che sia stata arruolata nelle fila della RAI, non so quando inizierà, però avevo letto che era stata ingaggiata dalla RAI per fare una trasmissione che non so se l'hanno già iniziata o meno, perché a me non è che mi è mai interessato vedere le sue trasmissioni, però diciamo che era antipatica e simpatica a secondo delle persone, a certe persone era simpatica, a certe altre era antipatica, perché no? Comunque era, non lo so come la devo giudicare anche lì, non lo so, una persona tranquilla, beh, diciamo che era una persona tranquilla, perché vuol credere che sia tranquilla, pur magari altri possono pensare diversamente, non lo so. Poi per quanto riguarda il figlio di Berlusca, a me mi pare che non so cosa va in capo questo cristiano, la verità, sta rivoluzionando tutto il mondo Mediaset, sta rivoluzionando. Sì, lascio sempre qualche secondo. A quanto pare dicono che sta chiudendo, che voglia chiudere qua, non è che voglia chiudere perché stanno in fallimento, così stavano dicendo. Passa su un altro canale che non so quale sia. E se tu inizi a licenziare le persone che comunque hanno un sacco di ascolti, perché Barbara D'Urso, simpatica, non simpatica, comunque faceva determinati, io guardo quello soprattutto che fa, determinati programmi che aiutano la gente, no? Perché li faceva. Come Maria De Filippi, no? Per dire. Quella, da una parte c'è Amici, che io a quel programma non ci credo, manco se mi baghi, vi credo, al suo programma, che uno dei ghibita, poi si va a finire, si abbraccia lo parenti, ma di cosa parliamo? Quello non ci credo, però gli altri che tipo Amici così, no? Che aiuta tanti ragazzi che oggi come oggi sono, grazie a lei, diventati famosi come ballerini, come cantanti, eccetera, eccetera. E sicché quando licenzi queste persone è la stessa cosa che mandi a casa del debito, che fa programmi, che va in strada a chiedere e informarsi, no? Di tutte queste cose qua. Ma io il programma di Maria De Filippi a me non mi piace, ma così di là. Perché secondo me quei ragazzi se andassero a lavorare veramente forse sarebbe la cosa migliore, perché intanto prima fanno l'entrata del leone e l'uscita del mazzone, come si dice a Sassari, ci avrei visto tutti quanti, poi non riescono più a avere successo più di tanto. Vedi ad esempio Marco Carta, Valerio Scano, tra l'altro anche quelli, tutti e due ghi, no? Per aggiungere alla catena dei ghi che abbiamo parlato poc'anzi, primo. E poi sono ragazzi che si illudono, avete il traiente prepotente, tutti timbrati, timbrati li intendo tutti quanti con questi tatuaggi che fanno schifo ai cani, ma non mai, capita? Per me quello lì sta rovinando, un mondo di ragazzi sta rovinando, per cui quel tipo di trasmissioni io non le avrei accettate. Uno, se ha le qualità per cantare, deve innanzitutto fare la scuola di canto, no? Una scuola così che vanno, non fanno altro che andare a bisticciare tutti i santissimi giorni, cavendosi in luci questi professori del cavolo che ci sono lì, che si offendono addirittura l'uno contro l'altro. Ma che tipo di scuola è quella, si può sapere? E tutte queste opere di Maria De Filippi, secondo me. Per me il programma di Maria De Filippi è da abolire, perché secondo il mio punto di vista, stai rovinando la schiena dei ragazzi. Ma no, perché rovinando? Questo... Molti ragazzi hanno fatto carriera, grazie a lei, perché quella è una scuola comunque, ci sono anche dei giudici, è una scuola comunque, fanno tantissime ore, perché è vero, di prove, di canto, di ballo, c'hanno l'insegnante, caspita, è come un collegio, alla fine loro stanno lì a imparare, poi sì, lo mandano in trasmissione, gli errori e tante cose che fanno, ma sì, impegnano, è cosa che non è da poco ai giovani di oggi. E alla fine ne escono che, caspita, parliamo sempre della generazione odierna, capito Giulio? Non è che parliamo di quelli di una volta, non dobbiamo pensare alla mentalità di una volta, ma a quella di oggi. Ma io ho letto su un giornale appunto che parla di antichi eccetera, che questi ragazzi che escono dalla maglia dei Filippi sono pochissimi quelli che sono riusciti, nonostante che è una trasmissione che dura 20 anni, anche di più forse di 20 anni, e ne sono usciti qualcuno e hanno avuto un piccolo successo, ma un piccolissimo, e subito poi sono spariti dalla circolazione. Questi a un certo punto si ritrovano senza niente, senza mestiere, senza niente, si ritrovano. Perché i veri artisti non vanno da Maria De Filippi, guarda, a fare quel tipo di trasmissione, perché quelli sono praticamente in mano agli usurai, perché quelli ragazzi li lanciano e si prendono un po' di soldi chi li lancia, e poi loro falliscono completamente e passano nel dimenticatoio. Gente come il Volo, ad esempio, visto che è nato da quella trasmissione di coso, di quell'altra donna che presenta, che non mi ricordo come si chiama, io con i nomi di questi artisti non è che me li tengo a memoria, perché tanto a me tanti artisti della televisione mi danno anche fastidio per come si presentano, per dirti, no, quelli sono degli artisti come si deve, perché c'è la qualità, c'è il valore dell'artista, ma quelli che escono da Amici, che non sapevo cosa ne faccio, cosa ha fatto Marco Carta o Valerio Scano, un pochino mi quella ambetta, quella la ballerina, quella lì ha fatto qualcosina così alla Scala, lavora alla Scala, ma poi uscita da lì non fa più niente, ma che dai, poi un mestiere da ballerino, come comincia a avere una certa età, il ballerino non lo puoi più fare, è come lo sportivo, no? Che tu raggiungi un certo numero di anni, poi sei vecchio per fare certe attività. Lì dipende da tanti fattori, secondo me, Giulio. Vedi Vasco Rossi, Zucchero, tutti quelli che hai, Neck e tanti altri che hanno fatto carriera. Certo non c'era Maria De Filippi, però non si sa da chi, da cosa, hanno cantato e sono diventati famosi, hanno avuto un agente, quella gente là gli ha fatto fare qualche concerto, o probabilmente prima hanno iniziato nei bar, come si fa, o nel karaoke. Ho visto l'altro giorno un video di Tiziano Ferro quando faceva karaoke, ti puoi immaginare, con i capelli lunghi, no? E da lì poi si vede che qualcuno l'ha visto, l'ha ingaggiato, ma mica andando da Maria De Filippi, però oggi c'è il programma appunto che è Maria De Filippi, è un trampolino di lancio, poi spetta anche a loro, giustamente, no? Però vedi, anche la figlia di Mango, anche tu mi direi, ma quella era la figlia di Mango e già aveva un punteggio in più, come tanti altri, no? È successo così alla fine. Però si è data da fare anche lei, con Maria De Filippi, con quell'altra Giulia e tanti altri. E poi bisogna vedere quanto vanno avanti, dipende da loro. Se è il successo del momento e poi va solo successo e boh. Ma io ti stavo dicendo che ho letto la lista dei ragazzi che hanno fatto su un minimo di successo, non un grande successo, ma un minimo di successo, che sono usciti dalla scuola di Maria De Filippi. E in tutti questi questi 20 anni e oltre di trasmissione sono usciti 7-8 persone così, ma niente di più. Poi alla fine sono spariti dalla circolazione, magari stanno lavorando, forse parlano, che so io, piano bar in qualche negozio, oppure quelli che vanno in discoteca a presentarsi lì, a mettersi in evidenza, tutte quelle donne, gente addirittura di 70 anni che va a cercare la compagna, ma chi fa vino mi viene. C'è quella cosa, come si chiama, quella Gemma, che è una donna più fea dei droni, e lei è roba di 15 anni, sempre con Maria De Filippi lì. Ma cosa sta facendo? Maria De Filippi sta facendo i soldi da sopra questa gente stupida, perché questa gente è stupida, che va lì, si mette in evidenza, e almeno quei giovani, se non altro, vanno in discoteca e lì li pagano quando vanno in discoteca, perché presentano l'attivo alla gente. Però tutto sommato è sempre una carriera limitatissima, che non più di tanto. Finito quei giorni, quel periodo di clamore, diciamo, a un certo punto ti ritrovi senza niente e sei sempre uno sbandato. Sì, e quanti cantanti e attori ci sono che si offenderanno a vanni dopo una vita di carriera? Perché? Perché lì c'è tanto, ne ho una vita ancora avanti, sono famoso, ho tanti fan, ho tanti, capito, come Renato Pozzetto, Jerry Calà e tanti, vabbè, lasciamo perdere chi oltre all'attore ha i locali, lasciamolo perdere quelli che comunque hanno studiato un business, ma chi ha fatto solo quello e poi si ritrova come Pierino, poi bisogna vedere se sono cose vere, boh, non si sa, chi sono avvammi nel vero senso della parola, eppure hanno fatto ridere, hanno fatto divertire per tanti anni e poi si trova a un certo punto, è vero, a 40 anni sei già fuori, a 50 anni sei già fuori, perché non si ragiona più come prima, quando c'era il papà di Christian De Sica e tanti altri che lavoravano fino a 40 anni. Oggi si furi, a una certa età si furi, e sicché se i soldi non li investi, ma non comprandoti case a tuoi figli, no, quella è una cosa naturale che sistemi tutti, ma devi sistemare anche il conto in banca, perché le spese ci saranno poi anche un domani, e quello che no, arrivano alla fame, chi dura dormendo, quel comico stava dormendo in macchina perché no, in televisione a Zelig e così non lo stavano più chiamando, quindi uno ne hanno intervistato anche le Iene, e cioè hai guadagnato tantissimi di quei soldi, però li hai anche sputanati, perché pensavi che la tua carriera durasse tantissimi anni, milioni di euro sputanati così in locali, in ristoranti, comprando qui, comprando là, e da poi taccia più senza nulla. Sì, perché è un mondo, questo dello spettacolo è un mondo di viziosi, la maggior parte di questi artisti, di questi cantanti, di questa gente che poi alla fine vanno in televisione a lamentarsi che prendono 1.000 euro di pensione, eccetera, eccetera, come quello che fa Pierino, ad esempio, e lui però allo stesso tempo ha la piscina nella sua villa. Ma dico io, se è vero che vai a Vammi, venditi la casa dove hai la piscina, se la vai a abitare in una casa più modesta. È utile che stai qui a lamentarsi in televisione che a te ti danno 1.000 euro di pensione. Ti danno 1.000 euro di pensione, ma che non è pagato di darsi, ecco qual è il discorso. Per cui non puoi pretendere, se poi hai guadagnato e li hai bruciati i soldi così, perché sei un grande deficiente. E questo vale, questo discorso vale per tutti quelli artisti che non lavorano più, che si lamentano che non hanno più lavoro, che non hanno possibilità di andare avanti per quel motivo lì. Sì, però contratti da milioni di euro, come i cantanti, da Albano e tanti altri, che comunque io non so se lo fanno, se lo fanno per ingordigia, a una certa età continuare a fare concerti addirittura all'estero e pigliarti l'aereo e farti tante ore di viaggio, andata, ritorno. Già è un'azienda che è comunque famosa, che produce. E io non lo so, dice, molti dicono non è vero, lo fanno perché gli piace. Ho capito che lo fai perché ti piace, ma a 80 anni già io mi sarei fermato prima, essendo milionario mi sarei fermato già da prima e godermi magari se ho dei nipoti, dei figli, la vita, gli hobby. E cosa a me dà la cosa, tutti, per dire, no, parlo di un giocatore, e tutti, padri, beh, e tutti quelli che ce ne sono andati in pensione, dei giocatori, fanno bene a goderci la vita a Cannavaro, in Bari e tanti altri. Ma fatemi bene, sono ricchi, sanno investire, investono ed ecco così che continuano a essere ricchi. Ma molti sono ingordi, molti sembra che se smettano di lavorare, di a 80 anni, di cantare con milioni di euro che hanno, sembra che facciano la fame, ma dai, che quella ingordigia. Ma finché gli offro le serate, loro dico vado e canto e guadagno, ecco qual è il discorso. Certamente quei soldi che ha adesso si potrebbe anche ritirare, soprattutto al Mar, l'altro giorno c'era la partita della Coppa Italia, Atalanta-Juventus, capita, ha fatto una stecca che nemmeno un principiante, cantando cosa, Fratelli d'Italia, cioè infatti l'inno italiano, no? Cantando l'inno italiano, certe secche, capita, le ha volute cantare a modo suo, ogni schifo ha fatto, ma veramente uno schifo, e nonostante tutto è sempre lui, capita, è Albano, con la scusa che ha fatto una lunghissima carriera, che ha fatto anche tanto successo, e poi è di un pure vizioso, gliel'ha visto, ha lasciato una moglie che era una santa donna rispetto a lui e si è messo con quella bruttotta per conto mio, io la penso così, poi magari mi sto sbagliando, però non va bene, 30 anni più poco meno di lui, ma come fa un uomo di 80 anni a mettersi con una persona che va 30-40 anni in meno? Ma andate, lo sai, se tu ti metti con quello poi diventi cornuto a Maragana, non hai capito come funziona? E chi sono se più vissami? Anche in televisione più vissami, da Gitto Pier Silvio ha fatto un raus, di un bel di niente ha fatto un raus. Di gente che Alessia Marcuzzi, di gente che comunque portava soldi all'azienda, siccome lui è stramilionario, che non è stato lì a guardare il centesimo a quanto pare, però a chi ascoltava la D'Urso e tanti altri è stato un dispiacere. Lì è stato disonesto, perché non ha guardato quella persona lì era seguita da tanti anziani che a quell'ora accendevano la televisione per lì e guardava Barbarella, no? Tutti questi e tanti altri programmi. Lì non ha guardato in faccia a nessuno. E poi va a dire in televisione, grazie a voi che la Mediaset va avanti, e tu così, muori babbuduio e di Ponte Bianco tronchi gli ascolti così. Boh, lì ha sbagliato secondo me. Poi giustamente guarda i suoi interessi. E boh, dico volo, non mi piace, sì, ma a parte che sono canzoni cantate già da altri, che loro non fanno altro che copiarle e ricantarle. Boh, perché poi è un trio che c'è un tenore, c'è un melodico, c'è, capito? Quello sì, ci sta, è un trio che sta bene insieme comunque. Ma quelli sono straordinari, quelli è un vero trio di artisti, perlomeno insieme. Poi se magari si dividono, ognuno va per conto suo, forse che non siano più così bravi, però quando cantano insieme sono straordinari, girano il mondo e sono ricercatissimi. c'erano anche ieri sera, adesso ci saranno domani, cioè ci saranno la prossima settimana, ci saranno martedì prossimo di nuovo sempre su canale 5 per fare l'altra serata, perché era tre serate dovevano fare, per cui ci dovrebbero essere anche martedì prossimo. Per quello anche ieri c'era la seconda puntata del film su Guglielmo Marconi, ma Guglielmo Marconi, perché così è vissuto, è una bucaria, non ce ne sono più artisti come si deve, o meglio né registi né artisti né cantanti né parolieri, non ce ne sono più, gente brava veramente non ce n'è più, sono tutti quanti scarsi, purtroppo è così. Rimpiangiamo gli anni passati, ma sto parlando di 50 anni fa, quando veramente c'erano spettacoli, c'erano artisti, canzoni, e c'erano soprattutto parolieri, quelli che facevano le canzoni, delle vere poesie. Oggi invece va di schifo, soprattutto chi si rapper, che cantano così, tutta gente maleducata, tutta gente drogata, tutta gente pittuta come tanti zingari, ma quando mai? Drogati. No, quello magari no, però è la generazione, Giulio, non ci puoi fare niente, no, cosa ci puoi fare? A che cosa bisogna federsi, bisogno di